Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Il grande Friedrich Nietzsche una volta ha scritto: chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. Se tu guarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te. E questa frase si sposa perfettamente con la nostra storia di oggi, la storia di Rina Fort, soprannominata la belva di via San Gregorio, una donna che ha cercato di sconfiggere i suoi demoni ma ha perso la sua battaglia e come avvertiva Nietzsche, perdendo la sua battaglia è diventata lei stessa un mostro, anzi il mostro. Milano, è il 29 novembre 1946, sono le 7 di sera, è buio, fa freddo, le persone stanno tornando a casa per la cena, è la Milano che sta leccandosi le ferite della guerra come tutta l'Italia, e tra la gente per strada c'è anche una donna a 30 anni, è carina, i capelli neri, gli occhi dal taglio vagamente orientale, si ferma davanti a un condominio, è il numero 40 di via San Gregorio, zona Porta Venezia, e in portineria a quell'ora non c'è già più nessuno. Lei sale, arriva fino al primo piano, bussa una porta, entra nell'appartamento. Ad accoglierla c'è una donna incinta e ci sono tre bambini, e la padrona di casa la fa entrare, le offre da bere. L'ospite accetta, all'improvviso prende una spranga di ferro e compie una strage. L'incaricato di seguire il caso era Dino Buzzati. Descrive così il massacro di via San Gregorio sulle pagine del Corriere della Sera. Una specie di demonio si aggira per la città, invisibile, e sta forse preparandosi a nuovo sangue. L'altra sera noi eravamo a tavola per la cena, quando poche case più in là una donna ancora giovane massacrava la rivale e i suoi tre figlioletti. Non si udì un grido. Là tutto era silenzioso e immobile, orribilmente fermi come pietre i quattro corpi, di cui il più piccolo seduto sul seggiolone, con la testa piegata da una parte, come per un sonno improvviso. E fermo oramai anche il sangue, i cui rigagnoli erano simili a neri polipi immondi. Così la città vegliò inconsapevole sulla mamma e sui tre bambini morti, senza sacramento, abbandonati sulle gelide piastrelle in tutta la loro corporale miseria. E fino a che non tornò il giorno e non suonarono le nove, non ci fu a consolarli la pietà di nessuno. È un delitto terribile che coglie l'Italia alla sprovvista. Si sta risollevando l'Italia dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Questo delitto arriva come un fulmine, è un affare nazionale. È il primo grande caso di cronaca nera italiana. I giornali hanno sete di storie del genere, anche perché negli anni del fascismo di queste storie non si parlava. Il regime preferiva che gli italiani non conoscessero episodi del genere, e devo dire che questo probabilmente generava anche meno voglia di emulazione. Io sono abbastanza d'accordo su quella linea. Però adesso invece tutto è cambiato. I giornali si lanciano su storie come quella di via San Gregorio. E per vendere più copie possibile ancora non c'è la tutela che c'è oggi. Quindi i quotidiani pubblicano le fotografie delle vittime senza omettere nessun dettaglio, neanche il più macabro. Anche la foto di un bambino senza vita su un seggiolone. Eh sì, perché la vittima più giovane è Antoniuccio Ricciardi, che ha solo 10 mesi. La prima persona che entra nella casa dopo questa mattanza è Pina Somaschini, che è una commessa. Deve ritirare da Franca Pappalardo le chiavi del negozio di stoffe dove lavora. E Pina si trova davanti a questo spettacolo raccapricciante, è sotto shock, non riesce a pronunciare parola. Poi si riprende, corre giù in strada, chiede aiuto, attira l'attenzione dei passanti che si raggruppano di fronte al numero 40 di via San Gregorio. La scena del delitto viene descritta dalla giornalista Valeria Gandos in un documentario sul caso Fort che ha realizzato la Fox, e c'è il contributo dell'Europeo e dell'Istituto Luce. La scena del delitto è veramente terribile. Uno dei bambini, Giovannino, in una posa innaturale per terra, in una enorme macchia, chiazza di sangue. Più avanti trova Franca, la donna, con addosso la pelliccia e la camicia da notte. Nella cucina, sotto il tavolo, c'è la bambina Pinuccia, anche lei uccisa e insanguinata e, in particolare più atroce di tutti, il bambino più piccolo, Antoniuccio, sul seggiolone, con la testa fracassata. Prima della polizia arrivano i giornalisti e i fotografi e questi si lanciano come avvoltoi sui corpi delle vittime, li spostano, li calpestano, vogliono scattare le foto più impressionanti possibili. È una cosa selvaggia, anche perché, ripeto, allora non c'erano quelle piccole tutele che ci sono oggi sulla privacy e i minori e cose di questo genere. Tra l'altro, l'intervento dei fotografi inquina irrimediabilmente la scena del crimine, complica il lavoro degli investigatori. Tra questi c'è un commissario, si chiama Mario Nardone, è uno dei migliori poliziotti italiani del dopoguerra e lui conduce le indagini, comincia a raccogliere informazione. Intanto scopre, dal racconto della prima testimone, che le vittime sono la moglie e i tre figli del padrone della testimone. È un siciliano, si chiama Giuseppe Ricciardi, detto Pippo, un commerciante di stoffe. In quel momento Giuseppe si trova in Toscana per affari. Era un terrone, fra virgolette, quindi una persona che va a cercare fortuna al nord nell'epoca della ricostruzione, l'inizio della ricostruzione. Era uno dei cosiddetti magliari, magliaro che poi diventò sinonimo di uno un po' disonesto, comunque che faceva affari poco puliti. Perché? Perché questi magliari compravano tessuti di cattiva qualità e li mandavano al sud, dove non c'era niente, non c'era assolutamente niente. L'appartamento è completamente sottosopra, dalla casa sono stati portati via i pochi gioielli e i contanti della signora Ricciardi e insomma, inizialmente si potrebbe pensare a una rapina finita male, ma c'è qualcosa che non torna e mancano i segni di scasso alla porta, quindi, come si dice oggi, la vittima conosceva il suo assassino. E poi su un tavolo ci sono due bicchieri del servizio buono, quelli che si prendono dalla vetrinetta quando arrivano gli ospiti e quindi qualcuno ha bevuto, c'è stato un piccolo convivio. Ma soprattutto, perché un ladro d'appartamento dovrebbe uccidere quattro persone, di cui tre bambini, per un bottino così misero? E poi c'è un indizio che sfugge a tutti, ma non al commissario Nardone: sul pavimento ci sono i frammenti di una fotografia, la fotografia dei coniugi Ricciardi il giorno delle loro nozze. È una foto che è stata strappata in mille pezzi. Il commissario Nardone indaga sul delitto di via San Gregorio e, anche se la scena del crimine, l'abbiamo detto, è stata inquinata irrimediabilmente dai giornalisti e dai fotografi che sono arrivati in maniera anche un po' da sciacalli, diciamo. Per Nardone l'indizio della fotografia del matrimonio fatta a pezzi comincia a essere fondamentale. Si esclude subito l'ipotesi di una rapina finita male. Per il commissario non può che trattarsi di un delitto passionale. Segue questa pista e così comincia a scavare nella vita privata e professionale di Ricciardi. Grazie alle informazioni avute da Pina, la commessa del negozio di stoffe, scopre che prima di lei, dietro al bancone della bottega, c'era un'altra donna, una friulana che si chiama Caterina Fort. Viene raccontato anche nella fiction Rai, il commissario Nardone, il poliziotto, va da questa donna, non ci mette molto a rintracciarla per interrogarla. Buongiorno. Buongiorno. Lei deve essere Rina Fort. Lei chi è, scusi? Sono commissario di polizia, Nardone. Cosa vuole? Vorrei farle delle domande. Avanti. Non qui, ci dovrebbe seguire in questura. Bene. Non mica paura io. Dopo alcune ore di interrogatorio, Nardone scopre che tra Rina Fort e Pippo Ricciardi c'è molto di più che un semplice rapporto di lavoro. I due sono amanti. Da qualche tempo però non si frequentano più. La donna si dichiara estranea al delitto, ma intanto Ricciardi viene raggiunto dalla notizia della tragedia, torna a Milano e viene subito interrogato da Nardone. Sono stato io. La sera di sabato stavo a San Giusto. Ho i testimoni. Bene, questo già l'ha detto. Quello che voglio sapere io è se lei pensa che Rina Porta possa aver ucciso sua moglie e i suoi figli. Perché non mi risponde? Quella quasi non la conosco. Non so cosa abbia in testa. È vero, abbiamo avuto una storia, ma era una cosa di sesso. Niente di più. Rina Porta non è nessuno per me. Sì. Commissario, è arrivata. Nella stanza viene fatta entrare Rina Ford. Ricciardi, appena la donna fa il suo ingresso, l'abbraccia, le sussurra nell'orecchio alcune parole che nessuno riesce a sentire. E Nardone è molto stupito di fronte a questa scena. Quale uomo abbraccerebbe la donna che è sospettata di avere sterminato la propria famiglia, di aver ucciso i tre figli? Ma soprattutto, chi è Rina Ford? È un'assassina a sangue freddo oppure una donna manipolata dal suo amante? L'unico modo che il commissario ha per scoprirlo è scavare nel passato di questa donna misteriosa. Sono nato a Budoia, in provincia di Udine. L'infanzia è meglio che l'assalto. Perché? Cosa le importa lei della mia infanzia? Come, che cosa mi importa? Mi importa di lei, quindi anche di quando era piccola. Comunque la mia infanzia è stata inutile. Tempo buttato. Mi sono neanche divertita. Insomma, Rina Ford è una donna impermeabile, non racconta nulla del suo passato e non sembra toccata da quello che è accaduto nell'appartamento di via San Gregorio. È un atteggiamento naturalmente che fa crescere i sospetti del commissario Nardone. Lui è un poliziotto sveglio, è uno capace di scavare nella personalità dei criminali, magari utilizzando anche strumenti non convenzionali. E per far parlare la Ford bisogna fare leva su un suo nervo scoperto. E così il commissario decide di giocarsi un asso nella manica. Sentiamo Daniele Proti, l'ex direttore dell'Europeo, dal documentario che vi ho già citato. Nardone racconta come ha fatto confessare Rina Ford. Io sporcai di rossetto una sciarpa di quel mascalzone del suo amante, Pippo Ricciardi. Bene, con quella sciarpa andai da lei e le dissi: guarda come pensa a te il tuo Pippo, se la spassa mentre tu sei in galera. Bastò questo per farla crollare e naturalmente feci sparire la sciarpa subito dopo aver messo tutto verbale. E Rina Ford, dopo 17 ore di interrogatorio, il 7 dicembre 1946 ammette di aver compiuto il massacro, di essere la belva di via San Gregorio. Il demone che si aggira per la città e dietro alle sbarre in Milano può tornare a dormire e sonni tranquilli. La Ford, subito fermata, confessò il 7 dicembre, dopo 18 ore di interrogatorio e dopo aver dato ben 7 versioni diverse del delitto. Il ritorno da Catania della Franca e dei figli, minacciando il suo legame con Ricciardi, l'aveva spinta al delitto. E le parole della Ford confermano l'ipotesi di Nardone. È un delitto passionale. L'assassina confessa di essere responsabile della morte di Franca Pappalardo e dei suoi tre bambini. E racconta di aver bussato alla porta della famiglia Ricciardi, di essere stata accolta in casa da Franca con in braccio il bambino più piccolo. Come se avesse capito il motivo della visita. Franca le dice di mettersi l'anima in pace, di togliersi dalla testa il suo Pippo. Lei, come dire, ha un atteggiamento conciliante, gli dice che è un padre di famiglia, c'è una famiglia che ha bisogno di lui, vi siete divertiti, ma adesso è il momento mio e dei miei figli. Franca si alza, va in salotto, prende una bottiglia di liquore e Rina negli interrogatori ricostruisce i passaggi di questa strage e li ricostruisce con una freddezza che fa gelare il sangue. Mentre la Pappalardo era nell'altra stanza, ruppi il collo della bottiglia di liquore e me ne versai in abbondanza. La signora allora, udito il colpo della bottiglia, si precipitò verso di me. Giunta nell'anticamera, l'incontrai mentre tentava di venire in cucina. Alla mia vista Franca si spaventò indietreggiando. Mi avventai sopra di lei e la colpii ripetutamente alla testa con un ferro che avevo preso in cucina, di cui non sono in grado di specificare le dimensioni. La Pappalardo cadde tramortita sul pavimento. Io continuai a colpire. E la violenza di Rina Ford non si ferma davanti a nulla. Dopo aver colpito 18 volte con una spranga Franca Pappalardo, passa ai figli, si accanisce sui bambini. Alzai il ferro sul piccolo Giovannino, che ha provato a difendere la madre. Alcuni colpi andarono a vuoto e colpirono il muro. Altri lo raggiunsero al capo. Poi, entrata in cucina, colpii anche la Pinuccia. Ad Antoniuccio, seduto sul seggiolone, infersi un solo colpo, in testa. Non era ancora morto nessuno. Il piccolo respirava, la signora si dimenava, la Pinuccia rantolava. Senza rendermi conto di ciò che facevo, rovesciai sul viso delle vittime dell'ammoniaca. E prima di allontanarmi definitivamente, ficcai loro in bocca dei pannolini imbevuti dello stesso liquido. Le vittime agonizzavano ancora quando accostai la porta e discesi le scale. Andai a casa, mangiai due uova fritte con i grissini. La notte non potei dormire. Il giorno seguente mi recai regolarmente al lavoro. Rina Fort viene arrestata e ricoverata nel manicomio criminale di Aversa, dove rimane per 2 anni in attesa del giudizio. E c'è un luminare della psichiatria, il dottore Filippo Saporito, che sottopone la Fort a diverse perizie psichiatriche per verificare la sua stabilità mentale. Da tutti questi esami emerge un'unica evidenza: la donna è sempre stata in grado di intendere e volere. Secondo il professore, Rina possiede addirittura un'intelligenza superiore alla media, che però non le ha impedito di farsi inghiottire dai demoni che abitavano nella sua anima. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia terribile, una storia di violenza e di morte. Siamo nel 1946, stiamo parlando della belva di Via San Gregorio, un delitto passionale di una ferocia unica. L'autrice della strage è Rina Fort, che nel 1946 ha ucciso la moglie e i figli del suo amante a colpi di spranga. A 3 anni dal delitto si apre il processo contro l'assassina e naturalmente c'è un'attesa e un'attenzione spasmodica in tutta Italia. Gli italiani vogliono sapere cosa ne sarà della belva. Molti italiani sono in coda al tribunale. Non si poteva entrare. C'era tutta via Freguglia piena di gente e i carabinieri dovevano, per entrare noi avvocati, dovevano farci a forza il corridoio per farci entrare. La gente si accalca, piovono insulti di ogni tipo contro Rina Fort e così descrive la situazione la giornalista Valeria Gandus. Quando ci fu il processo, tutti erano in qualche modo affascinati dal personaggio, benché turbati per l'orrore di quello che aveva fatto. Le donne la guardavano e addirittura si ispiravano a lei come modello estetico. Le persone si aspettano scenate in aula, urla, implorazioni, rimangono tutti delusi. Rina Fort rimarrà seduta per tutto il tempo nella gabbia degli imputati senza mostrare nessuna reazione. Nasconde il volto dietro una sciarpa gialla e c'è ancora Dino Buzzati che segue il processo per il Corriere della Sera. Si direbbe che Rina Fort non veda e non ascolti. Viene perfino fatto credere che non pensi a niente. O perlomeno non pensi alla propria rovina, né a chi dorme sottoterra per colpa sua, né alla punizione che l'aspetta. In aula ci sono sia Giuseppe Ricciardi che l'anziano padre della Pappalardo. Rina Fort non li guarda e se ne astiene evidentemente senza il minimo sforzo. Come se fossero stranieri, persone umane come tante altre, mai sentite nominare o addirittura ombre. Il 12 gennaio va in scena in aula l'interrogatorio di Rina Fort. La donna parla a bassa voce, solo in pochi capiscono le sue risposte e il suo modo di fare, così tranquillo, quieto, crea un'atmosfera strana e inadatta per un processo che in fondo sta vedendo alla sbarra una donna che ha ucciso a sprangate senza pietà 4 persone, tra cui 3 bambini. Stupefacente il clima in cui si è svolto l'interrogatorio della Fort. Senza lacrime, né scenate, né impetuose proteste di innocenza, né tensione degli animi, né dramma di alcun genere. Immaginate che invece di una donna e 3 bambini uccisi si trattasse di un furto di lamiere. Ecco il livello della commozione complessiva. E l'unico tentativo di autodifesa della Fort avviene quando la donna cerca di scaricare la responsabilità dell'omicidio dei bambini sul suo amante Giuseppe Ricciardi e su un altro complice. E i due all'epoca delle indagini erano stati indagati, anche incarcerati, e poi erano tornati liberi perché erano stati ritenuti assolutamente estranei ai fatti. La Fort tenta ancora questa mossa disperata, ma la mossa cade nel vuoto e si trova sola ancora contro tutti. Ma sembra non preoccuparsene troppo. Come racconta Armando Radice, l'avvocato di parte civile, Rina Fort è un personaggio, ha una forza che si sente nell'aria. C'è un solo momento in cui l'imputata sembra perdere il controllo, quando le viene contestato l'omicidio dei bambini. L'avvocato Radice la inchioda con delle parole parole terribili, vorremmo crederle, signora, dice l'avvocato, ma lei parla così perché, in coscienza, sa di avere ucciso i bambini e quei guanti neri che porta sono il simbolo del rifiuto per le sue mani e per quello che le sue mani hanno fatto. Colpevole, si udì, lo si sapeva, esclusa la premeditazione. Le tre parole, benché il giudice le leggesse senza la minima espressione, ebbero un suono intenso, sopravanzando tutto il resto. I cuori, anche ai più vecchi e scettici cronisti giudiziari, anche nel petto degli avvocati avvezzi, come i medici, a contemplare sventure, battevano più forte del solito. Quello della imputata no. Non alzò gli occhi, né impallidì, né vacillava di un millimetro. Atona inerte. Ergastolo, si udì. Poi delle represse grida da dietro, dove si accalcava il pubblico. «Bene! Bravi!» e qualche rotto applauso. In lei nulla cambiò, ma non capiva. Reina Forte viene condannata all'ergastolo e neanche alla lettura della condanna sembra essere toccata. Esce dall'aula, è scortata dai militari, non guarda in faccia nessuno, non versa neanche una lacrima, non lascia trasparire nessuna emozione. Forse è una forma di difesa, si è chiusa totalmente a riccio. La verità è che sa anche di non avere più nulla da chiedere alla sua vita. Tutto quello che ha sempre sognato si era sgretolato sotto i suoi piedi. Forse una sintesi del suo mondo interiore si trova in questo passaggio del racconto della giornalista Valeria. Il perito sottopose Reina al test delle parole induttrici. Amore, disse il perito. Perduto, rispose lei. Famiglia, disfatta, fu la risposta. Amici, e la Fort, esitando, rispose. Non ne ho. Bambini, ci fu una pausa e lei rispose. Desiderati. Quando nella vita di una persona mancano l'amore, la famiglia, gli amici, i bambini, si può cadere in un buco nero. Questo avviene a Reina Forte. Per capire come ha inizio questa discesa agli inferi della protagonista bisogna tornare indietro di 30 anni, 1915. Lei nasce in provincia di Pordenone, è bambina, si deve rimboccare le maniche per dare una mano alla famiglia lavorando nei campi e quando ha 12 anni la casa in cui vive viene colpita da un fulmine, nasce un incendio, si salvano tutti, lei rimane traumatizzata per sempre da questo incidente e ne seguirà altri per condizionare la sua crescita come essere umano. Quello che più segna la sua vita è un incidente che riguarda il padre. Un giorno sono andata con mio padre a far legna sulle montagne. Io ero stanca e sono rimasta indietro. Siamo arrivati sul ciglio di un burrone. Mio padre lo salta senza problemi, invece io proprio non ce la faccio. Allora gli ho chiesto aiuto e lui si è allungato per afferrarmi. Io sono rimasta immobile, pietrificata dalla paura di cadere giù. Non mi sono nemmeno accorta che mio padre stava perdendo l'equilibrio. Ha provato ad aggrapparsi a una roccia, ma non ce l'ha fatta. È caduto giù nel burrone e io non l'ho mai più visto. E in Reina questo dolore psicologico si trasforma in sofferenza fisica, crisi isteriche senza ragione. Oggi si parlerebbe di esaurimento nervoso. Le analisi mediche dicono che lei soffre di ipogenitalismo, che è un difetto fisico che rende l'utero inadatto a ospitare, diciamo, una vita. Insomma, da ragazzina lei sa già che non potrà mai diventare madre. E poi scopre anche altri dettagli macabri sulla sua famiglia, dettagli che la sconvolgono. Nel 1930 ho saputo che nei 50 anni precedenti quattro miei parenti hanno subito una morte terribile. Il primo è stato Andrea Rizzo, che si è buttato sotto un treno vicino a Mestre. Poi è stata la volta di un altro Andrea Rizzo, un suo omonimo morto annegato. Poi due morti impiccati. Il primo è stato Don Nicola Rizzo. L'hanno trovato morto nella canonica di San Quirico a Pordenone. Per ultimo è stata la volta di una donna, Rosina Rizzo, trovata anch'essa impiccata. Insomma, una maledizione ha colpito la famiglia e lei vuole cambiare aria, fugge dal Friuli, vuole lasciarsi alle spalle un passato che è imbevuto di morte e di dolore e viene in suo soccorso una cugina che lavora a Milano e lei lì cerca di cominciare una nuova vita. Ero una simpatica contadinella una volta. Avevo 16 anni quando lasciai il paese. Alla stazione le amiche, un po' invidiose, scherzavano e mi dicevano: «Vedrai, in città farai fortuna, incontrerai un grande signore. Un giorno ti vedremo tornare in automobile». Lo dicevano per ridere, naturalmente, ma non poteva essere poi vero. Il falco. Il gabbiano. Abbiamo lasciato questa ragazzina che si è trasferita dal Friuli a Milano, che sta lavorando come cameriera per delle famiglie benestanti, e una volta a Milano arrivavano le venete negli anni 50, negli anni 60, le friulane, era un'abitudine nella Milano di quegli anni. E lei è una bellissima ragazza, un fisico attraente, diventa una calamita per gli uomini. Il mio primo amore è stato un ragazzo che sembrava uscito da un fotoromanzo. Mi sembrava di vivere in una favola. Dopo qualche tempo, lui mi ha chiesto di sposarlo e non ci ho pensato due volte a dirgli di sì. Ero al settimo cielo, ma commisi un'ingenuità. Cedetti alle sue insistenze troppo presto e andammo a letto assieme prima delle nozze. Qualche giorno prima del matrimonio, lui iniziò a star male e in poco tempo morì per tubercolosi. Per me è stata una doppia sciagura. In una volta sola ho perso l'uomo della mia vita e la verginità. Chi avrebbe avuto il coraggio di prendermi sposa adesso? Passano gli anni, lei comincia a aver paura di restare zitella per tutta la vita, ha 27 anni e in quegli anni avere 27 anni e non essere sposata era già, come dire, un bruttissimo segno. Accetta di sposare un uomo del suo paese, Giuseppe Benedet, e sarà l'ennesima scivolata verso il baratro. Giuseppe era un tipo particolare, ma ignoravo fino a che punto potesse arrivare. Ho iniziato a insospettirmi quando il giorno del matrimonio, al taglio della torta, ha versato un'intera bottiglia di aceto sul dolce, rendendolo immangiabile. Alla prima notte di nozze ero molto tesa, anche perché avevo paura della sua reazione alla scoperta che io non fossi vergine. Stavamo per metterci a letto quando all'improvviso Giuseppe viene colto da un raptus. Mi lega al letto, si spoglia e indossa il mio vestito da sposa. Così conciato, con gli occhi di matto, prima si autoflagella e poi inizia a torturarmi. Mi sono salvata solo grazie all'intervento di una vicina che ormai al mattino ha sentito le mie urla. Giuseppe viene rinchiuso in manicomio e solo dopo ho scoperto che la sua follia era dovuta alla sifilide. Rina chiede l'annullamento delle nozze, torna a Milano ancora una volta sconfitta, riacquista il suo nome da nubile, torna a lavorare e qui incontra un uomo, è alto, non è particolarmente intelligente, neanche bellissimo, anzi non è bello per niente, non è neanche elegante, però dimostra interesse nei suoi confronti, è un ottimista, è uno che parla di progetti, di futuro, ha voglia di emergere e lei si sta anche accontentando perché ha abbassato e dimostra molto l'asticella delle sue ambizioni e così si mette con Giuseppe Ricciardi, detto Pippo, è arrivato dalla Sicilia a Milano in cerca di fortuna, non ha la fede nuziale al dito, lei non vuole lasciarselo scappare, i due iniziano a formare una coppia sia sentimentale che professionale, aprono un negozio di tessuti a Porta Venezia, Rina non è più una commessa, comincia a comportarsi da padrona, vanno a vivere assieme in via Mauro Macchi e Pippo le propone di sposarlo. La vita di Rina sembra aver preso un binario regolare, ma non è un colpo d'ala, è una caduta in picchiata che la porterà a perdere quel residuo di umanità che ancora possiede. E le voci delle nozze tra Ricciardi e la Ford cominciano a circolare a Milano, soprattutto a Porta Venezia, e in quegli anni lì ci sono i negozi dei meridionali. E i pettegolezzi cominciano a correre per tutta la penisola fino a Catania, fino all'orecchio di una donna che sta vivendo a Catania, si chiama Franca Pappalardo in Ricciardi. Eh sì, è la moglie di Giuseppe Ricciardi. E così il segreto viene svelato. Rina viene a sapere che il suo uomo non solo è già sposato, ma è padre di tre figli. E Pippo cerca di tranquillizzarla, le dice che Franca e i bambini rimarranno in Sicilia, non saliranno mai a Milano. Rina si lascia convincere, addirittura comincia a confezionare e spedire a Catania dei vestitini per i bambini del suo uomo. Insomma, lei sta già pensando a una, come dire, una famiglia allargata. Pensa che tutto si potrà risolvere ancora e tutto sta andando in quel senso fino a un pomeriggio dell'ottobre del 46. Un giorno ero in negozio, suona il campanello, si apre la porta ed entra una donna incinta con tre bambini. Non ci ho messo molto a capire che quella donna era Franca, la moglie di Giuseppe, con i suoi tre figli. A quel punto mi si acceca la vista e la rabbia prende il sopravvento. Senza troppi complimenti ho cacciato Franca e i bambini dal negozio, lasciandoli per strada, al freddo. Insomma, l'incubo di Rina Fort diventa realtà. Lei è stata presa in giro da un uomo che le aveva detto di non essere sposato, invece aveva famiglia. Anzi, nel corso degli anni ogni tanto a Catania ci tornava, al punto che abbiamo un bambino piccolo e addirittura la moglie, nel momento del delitto, sarà anche incinta di un quarto figlio. Franca ovviamente reclama i suoi diritti, obbliga il marito a licenziare Rina dal negozio, a troncare la storia con lei, e l'uomo deve fare quello che chiede alla moglie. Lei incassa senza protestare. Dentro di lei si sta scatenando un uragano e la sua vendetta verrà servita in quella fredda serata del 29 novembre del 46. Ecco il parere di Francesco Bruno, il criminologo. Noi conosciamo moltissime donne che hanno un problema di sterilità o che ritengono di avere un problema di sterilità, che in situazioni gravemente patologiche, mi riferisco a schizofrenia o altro, vanno a uccidere i bambini di donne che invece hanno avuto una famiglia numerosa. È stato il movente maggiore, perché non c'era veramente nessuna ragione per uccidere anche il bambino di 8 mesi. Durante gli anni di carcere Rina diventa una donna molto religiosa, passa la maggior parte del tempo a confezionare vestiti per bambini e sul letto tiene 3 bambole. Tre come i figli del suo amante, che ha ammesso solo una volta di aver ucciso. Questa sua negazione ostinata rimane per anni, fino a quando Rina scrive una lettera all'avvocato Radice. Un giorno ero a Firenze e mi avvicinò una suorina e mi disse: «Avvocato, ho un biglietto per lei». C'era scritto: «Gentilissimo avvocato, la prego di accettare il mio modestissimo pour bonheur, portafortuna, della sua squadra preferita, firmato Rina Fort». Attraverso questo biglietto ho capito che avevo raggiunto una certa dialettica con questa donna, che l'avevo colpita non sul piano dell'accusa, ma sul piano dell'umanità. Non a caso Rina Fort mi manda un paio di scarpette da bambino con i colori rossoneri. Era il suo modo di dirmi: «Hai ragione, avvocato. Sono io l'assassina dei piccoli Ricciardi». Rina Fort rimane in carcere fino al 1974, sola con i suoi fantasmi. Verrà perdonata in qualche modo dalla famiglia Pappalardo. Nel 74 il presidente della Repubblica Giovanni Leone le concederà la grazia. Cambierà nome e con il nome di Caterina Benedette trascorrerà gli ultimi 14 anni della sua vita a Firenze, indossando sempre come una seconda pelle quei guanti neri. E il suo modo di nascondere al mondo quelle mani che l'hanno trasformata in una fredda serata del novembre del 46 nella belva di via San Gregorio. Ci sono persone che nella loro vita hanno dato un colpo d'ala, che si sono rialzate di fronte alle sconfitte. Non è il caso di Rina Fort, che è impazzita di fronte a una sconfitta e si è passati velocemente dal fallimento alla caduta, fino a essere inghiottita dall'abisso della violenza, della pazzia, della disperazione. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano, @radio24.it. Visitate la nostra pagina, venite a trovarmi sui miei, sui nostri social. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese e Fabio Donolato, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.